Alfa 1, Natalino, Natalino, Alfa 1, Alfa 1, Alfa Box. Attenzione, canale 10, cambio. Sì. Andiamo bene, andiamo. Buonasera anche a Claudio. Come mi stai ascoltando, Claudio? Bomber forte, 9.15, 9.20, radio 5, col KC. Cava di positivo. No, perché c'era uno spezzone che mi stava dando problemi. Come non muovevo, a volte non usciva. No, io l'ho preso che non ti sei preparato, era dove già, mica. Stai visto Roberto Quadratto stamattina alle 11.30 su, via internet, online, ha dato gli esami, promosso. 5 domande l'hanno fatto. Bella gaba gaba. Allora me la piglio pure io, Claudio. Io l'elettronica la conoscete, avete le basi, avete, cazzo, mica una gaggata online. Non è come te che ando la gira a Dio, no? Fin cuore di compito è scritto, cazzo, me ne scende dai beti. È facile, se studiate le cose basilari è facile. Ma che cosa Tore pure l'ha dato? Ah boh, mi sento via l'altro, non so così l'ha dato, c'è stato promosso. Roberto ero in diretta, io ero in diretta con lui, quindi dalle 11.30 a mezzogiorno meno 25 è passato, è finito tutto. 5 minuti. KK. E adesso quando lo rifanno? Sicuramente al prossimo anno. Non lo so, bisogna guardare la gazzetta ufficiale, boh, ma poi già vabbè, ci vuole poco informarsi. Sono contento veramente per Roberto, era un suo obiettivo e ci è riuscito, almeno è tranquillo. Beh, allora mi rabbiglio pure io. Vabbè, io devo solo ripassare, già mi ritrovo che già ne sono, lei. Ma infatti avete le basi, capito? Quando uno c'ha le basi è più facile rispetto a uno che di elettronica non comprende un accidente. Voi avete le basi, basta studiare le mie normative. Una domanda di normativa gli hanno fatto in voi, il resto erano, non era così difficile. Se non lui ha detto, gli hanno fatto una domanda un po' particolare, ma comunque lui l'ha preparata e quindi ha risposto tranquillamente. Sono contento, dai, va bene, almeno vuole tenere tutto, tanto non è che si metta a fare grandi cose, però era preoccupato perché c'è, insomma, le radio che c'ho io, dai, c'ha belle cose, quindi bisogna stare sempre allerta. Adesso te lo porto via e ci sentiamo sempre in UHF. Gabba gabba, ho solo il portatile digitale in UHF, lo sai, vado in digitale in UHF. In VHF sì, ma in VHF io vado solo in digitale, e buh. Adesso me la prendo pure io. Ma adesso, Gianfra, com'è la situazione? Come abbiamo fatto noi? Adesso le mando la patente oppure deve fare domanda di nominativo? Sì, appena c'ha la patente manda tutto e richiede il nominativo, la licenza. Ehi, com'era prima, solo quella provvisoria come avevano dato a noi non c'è più, perché vabbè, noi eravamo il VHF0. Non c'è più, adesso c'è diretta, IS0 e via. Sono contento per lui, perché è proprio la felice. In diretta. Stamattina, perché sono andato alle 10 in officina. Ho detto, solo io lo sapevo, già lo sai. Ho detto, Claudio, 11.30 del vento, dai, tranquillo, già sono con te, sono in diretta con te. In diretta mi ha interrogato. Questo mi ha salto di gioia, la poverina, va. Almeno è contento. Cioè, ti mani in bocco. A parte il fatto poi si può detenere tutto quello che vuole. Sì, no. Roberto fa più radio di me. Roberto c'ha belle radio veramente, ma belle veramente, belle, belle, belle. È già pronto, io il regalo gli avevo promesso, è conservata, ti ricordi la 520 che abbiamo smontato nuova nuova per i 50 mega, lui non ce li ha i 50 mega, le sto regalando l'altra antenna 40, 15, 20 e 40 e in più le sto regalando la direttiva per i 6 metri, nuova, nuova, nuova. Adesso vediamo, ora mi ci voglio mettere, tanto cosa ti chiedono, gli om, così è. Queste cose così, boh, non so, non siamo quella che è parte iniziale. Tu chi è Roberto, già c'è tutto lui, ti ha letto. C'è il libro, è una ripassatina, e un po' di tutto chiedono, dipende, dipende. Comunque, ripeto, quando uno ha le basi, è più facile rispetto a uno che non ha le basi, capito? Se uno non sa manco cos'è, un dio, una resistenza, un conversatore, cosa ti posso dire? Boh, non sai come ti ha fatto un alimentatore, non sai radiazione all'antenna, il lavoro all'antenna, cioè, tutte queste cazzate che voi sapete, perché lo so che lo sapete, è più facile, capito? Rispetto a uno che non sa manco usare un PL per dire no, che ce ne sono tanti, non è che non ce n'è, no? Sì, via, via. Vabbè, ma suonate il... Suonate il signor Franco. Aspetta un attimino, qua. Sì, sì, tu e Franco le basi ce le avete, ma non solo tu. Giulio c'ha belle basi lo stesso, solo che non gliene frega niente. Però dico, ce n'è di gente qua in radio che facciamo quel show che c'ha le basi per potersi inserire, capito? Poi rispetto, ripeto, se uno poi non gliene frega niente, pazienza, però non è detto che uno come me, io ce l'ho dal 93, cosa giù mai fatto, ma giù mai fatto nunca, solo che due chiacchiette le puoi fare in VHF, in HF, in HF con qualche amico, così. E poi soprattutto la detenzione, è molto importante, non ti rompe le palle nessuno, capito? Vabbè, Roberto già è a casa sua, non rompe le palle nessuno. Carissimo Gianfranco, issimo, come va? Tutto a posto? Ne hai freddo stasera? Hai sentito domani ne ha buffet, ragazzi? Mamma mia, gara! Aspetta, c'ho qualche problemino di coso, di come si chiama. Ecco, così va bene. Cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo più. Sì, se lo chiedi a me, non so manco cosa ti ho chiesto, no, se c'hai freddo è che domani c'è una bella bufera d'acqua, domani piove, forte pure, invece questa perturbazione in tutta la Sardegna orientale, occidentale, centrale, soprattutto di nuovo in Gallura, che porca miseria. Andiamo. Oggi vabbè, ha fatto una bella giornata. Sì, qualcosa l'ho fatta oggi. Con mio vicino ci abbiamo canalizzato due tubi in PVC che dovevamo finire. Li abbiamo presi qua dal cantiere, naturalmente con l'autorizzazione dell'impresario. Certo, poi mettere la linea del materiale, intanto ce n'è, poi si va perduto, perché stanno pulendo via tutto, capito? Qui ci abbiamo canalizzato quello, provvisorio, poi l'estate facciamo un lavoro più diverso. Quello nella strada mi Gianfranco, capito? Canalizzato quella discesina che c'è un po' più verso la campagna, altrimenti si ferma nel cancello, capito? Beh sì, l'unica. La fai di lì. Possibilmente fatti fare le gratte vicino ai cancelli. Sì, infatti quello dobbiamo fare la canale, no? Le gratte dobbiamo mettere, però facciamo queste scatte. Chiamiamo un mini scavatorino, perché cazzo la mattina avevamo qua e picco ci è uscita la canna tutte e due, cazzo va 70 anni, mio, non è? Non è un ragazzino, però mi ha ragione che ne guarda bene ancora. Capito? E quindi lo facciamo l'estate. Adesso abbiamo messo i tubi, così l'acqua non rimane ferma, canalizza e va fuori verso la campagna, capito? Se no lì si fermano le pozze d'acqua. Momentaneamente, provvisorio, già va bene. Tutto per la truppa, cambio e passo. E tu, fra, tutto a posto, tutto bene? Tutto bene, Claudio, tutto bene. Ma io la domanda, ce li avevo, c'ho tutto io, capito? Se le volevo fare l'esame, le potevo anche fare. Vabbè, però non mi siete inseriti, cazzo. Questo online è buono, non è così difficile. abbiamo fatti a Gianfranco, era più complicata la cosa. Tanto dovevo rialzare alle 6 del mattino, andare a Cagliari, lo stress del viaggio, aspettare, fare. Lui mi ha detto qua, mi hanno convocato alle 11:30, mi sono seduto davanti al computer, mi hanno detto di accendere la webcam, ho acceso la webcam, faccia a faccia e via. Lui faceva le domande e io davo le risposte. 5 minuti finito tutto. È meno stressante, capito? Ma infatti, c'ho tutte le basi già pronte, adesso il prossimo anno me la prendo pure io, dai, me la fotte in onda, tanto. Avanti il break è registrato, la buonasera. Ehi, dai, buonasera a tutti, manco male, sono convinto da Brecchetti, non l'avete sentito? Non capisco, non ti ho sentito già. Ma sto uscendo, infatti sono andato a controllare se c'è un'antenna attaccata. Andavi, dai, buonasera a tutti. Chi è che l'ha dato l'esame? Roberto stamattina in mia presenza alle 11:30, 10 minuti, 5 minuti ha fatto tutto. Online, promosso alla grande, 5 su 5, 5 domande e 5 risposte esatte. Meglio così, dai. Sì, sono contento perché era un suo obiettivo, era una sua soddisfazione prendersela, poi chiaramente non è che si debba mettere a fare grandi cose, però puoi avere e fare tante cose in più, come ho fatto io, no? D'altronde io non ho mai fatto di grandi attività, però ne ho rotto le balle perché ogni tanto venivano a controllare e allora abbiamo fatto. Molto bene, molto bene. Avanti Gianfra, ciao Gianni, comunque buonasera, ben sentito, vai Gianfra. Sì, buonasera Gianni. Ma poi dipende, sai, non è detto che piaccia a tutti, perché è molto molto diversa dalla CB, la pensione a non farsi delle diverse aspettative, perché innanzitutto è tutto un altro modo di parlare, poi già risentite, poi non è detto che ci sia spazio in VHF. VHF è sempre gente, comunque bisogna essere sempre un linguaggio appropriato, quindi è un'altra cosa, ecco. Sì, vabbè, sarà un'altra cosa, io ho sempre parlato come mangio, anche lì già lo sai, no? Già mi conosci, chiaro che deve avere un comportamento diverso, però vabbè, ma chiudiamo questo discorso che non me ne affrutti nulla. Non mi interessa, va bene così, ognuno fa le sue scelte ed è libero di farle giustamente. Avanti il break e buonasera. Buonasera, saluti a casa. È un traguardo che sono sicuro che ce la fai anche tu. Non c'è problema. È una cazzatina rispetto, ripeto, come ho detto poc'anzi, a quando li abbiamo fatto noi, io e Gianfranco nel 92, 93, se mi ricordo. Erano altri tempi e poi era tutto scritto, tutto un po' più di casino, un po' più di stress. Qua ti siedi davanti al tuo PC, sei a casa tua, sei più rilassato e tutto. Una cosa bella hanno fatto, pensavo anche Roberto, pensavo fosse più difficile, ma cosa dici? Ma ragioni devi, sei a casa tua, tranquillo, sereno, rilassato, rispondi a quello che ti dicono e va bene così, dai. Chiuso il discorso, parliamo di altro. Gianni, a te il cambio. Ehi, dai, ciao, ti ho arrugginito, ben sentito dopo tanto, che fine avevi fatto? Thank you. Io ero sempre stato, perché mi avevo dovuto installare di nuovo l'aggiornamento, perché con l'impiasto di FT8 non si viene, cioè serve, ma no, è odioso a dir poco. Quindi io rilancio a Claudio, che lui è più attento, io sono da due parti come al solito. Riprendi, Claudio. Sì, QSL, molto bene. Beh, no, gli anni era impegnato a fare altre cose, però ho notato che entrando un po' più spesso io la gente sta riprendendo a modulare. Ora, non so se sia una coincidenza, comunque va bene lo stesso, sono contento che qualcuno ha ripreso, due chiacchiere la sera, va bene così. Siamo pochi ma buoni, diceva quello. Poi al momento in cui ci sono rotture di balle io sono pronto a ritirarmi in bellezza. Avanti, Lucarie. Positivo e Gavarro, stavo studiando per la patente qua. No, là, sto scherzando. Adesso vediamo più in là. Tanto anch'io poi diventerò un casalingo. Così, dai. Posso fare tante cose. Puoi girare più frequenze, capito? Comunque c'è anche Gianfranco, c'era Gianni, avanti Gianni. E vabbè, a chi piace è giusto che lo faccia. A me non interessa. A me me l'hanno proposto tante volte, non mi interessa, mi piace più qua, dico la verità. Puoi spaziare, puoi scaziare, puoi fare quello che vuoi fare. Naturalmente se per l'educazione. E lì è troppo seriosa come frequenza, non mi piace per quello. Pare di robot, fa vidente, sempre ripetendo l'ominativo e cose, a me non mi va. Vabbè, qui ognuno fa quello che vuole, io rispetto le idee di tutti. Non ho detto che devi per forza fare l'animatore. Se però vengono a casa tua e ti trovano tutte quelle radio non omologate, o dico casa tua per dire casa di un altro, attenzione. Roba che non puoi detenere eccetera, prendi un'inculata più grande della tua testa. Invece in quella maniera sei più tranquillo, capito? Uno come me l'ha fatto per con quello scopo, mica l'ho fatto perché io non ho mai abbandonato la 27, mai, eppure la patente ce l'ho dal 92, cosa c'entra? Però se Gianfranco che modula la 27, un Marco, un Fabrizio, un Walter mi dice passa in lì che devo fare una prova, pronti? Passo e faccio una prova, capito? Hai tutto quello che ti serve, poi sta a te decidere che cosa vuoi fare della tua roba, capito? Se la vuoi usare in una maniera amatoriale, se la vuoi usare in una maniera CB. Io l'ho sempre usata in maniera CB, non me la futti nulla, quindi non sono discorsi diversi, cioè, quel comportamento, no? Perché qua non lo dici, ciao, buonasera a tutti, Gianni doppio Roma. Riprendeci, che sei Claudio Sparviero, e di là cosa cambia? Con che non devi parlare? ISL0 di FB, cosa cambia? Non cambia niente. Se hai un nominativo qui e hai un nominativo lì. Poi se non lo vuoi ripetere ogni 10 minuti, a me, io sono uno di quelli che Gianfranco a volte mi ha anche ripreso, non dicevo mai nominativo, perché come mi conoscete qua mi conosco lì, da tutte le parti. Dico a livello locale, a livello un po' in Sardegna, di quelli che ci conosciamo, quindi non cambia niente, già, capito? Però le normative sono normative, è chiaro che lì sono più rigide, qua sono meno rigide, però il comportamento di una persona è qua, deve essere qua, è qua, e l'educata deve essere dall'altra parte. Sempre di radio stiamo parlando, ricordiamoci sempre, farlo lì, farlo qua, sempre Matteo Gose. Vai Franco Galifo. Benemeda. Che hai detto Benemeda? Va. Carlo. Ho sbagliato qualcosa? Ma dopo ti corrigo una cosa. Avanti, chi ha detto Benemeda? Ti ha detto Carlo. Sant'Agostino, mobile. Lo sento molto basso io là. Buonasera, comunque Carlo, ben sentito e cordialità. Dove sei Carlo? A Sant'Agostino o ad Alghero? No, sono a Sant'Agostino a Sassari, vicino alla chiesa. Ah, pensavo di a Sant'Agostino ad Alghero, perché c'è anche lì la zona di Sant'Agostino ad Alghero. No, no, io ti sento benissimo, Santiago 7, Radio 5. Mi ha sentito un attimo, arrivo dopo, subito dopo. Quindi non penso che tutti quanti abbiano radio omologate. Io ho qualche radio che non è omologata, quello sì, però non vado in frequenze radioamatoriali, non c'ho radio amatoriali, quindi penso che, e poi anche se c'è la patente, certe radio se non sono omologate non le puoi usare. No, è tutto, è un discorso diverso, già, beh, non voglio entrare in queste cose perché no, ti ripeto, poi diventa brutto spiegare, fare, ribadire, no, non mi interessa. Forse non mi hai capito quello che ti ho detto poco fa. Io ho detto, se uno viene a casa tua, come casa tua, casa mia, casa di quella, casa di quell'altra, è chiaro che devi avere le radio omologate, no? Però tieni sempre conto che io con la patente radioamatore posso tenere qualsiasi tipo di baracchino, anche non omologato, in fase di sperimentazione. È diverso il discorso, Gianni, capisci? Sei più protetto. È chiaro che il 27 devi parlare con, anche la radioamatore, devi parlare con un baracchino omologato, capito? Ma ognuno si prende le sue responsabilità. Io non ne ho mai avuto baracchino omologato, il 27 ho sempre parlato col K, poi sarà mia responsabilità, no? Come ho sempre detto, ognuno a casa sua fa quello che le piace e si assume la propria responsabilità. Io me l'ho sempre assunta e no, non me la fotti nulla, se non avessi andata bene, va bene così. Quando sarà vuol dire mi prenderò quello che mi spetta. Però sto dicendo, se tu non c'entra niente che tu non hai radio HF, non hai VHF, non hai UHF, non sei radioamatore. Hai radio che non puoi detenere, capito? Mentre invece essendo radioamatore in quel caso le puoi detenere lo stesso. Detenere, stai attento, non confondere, detenere e usare, le puoi detenere, nessuno ti può dire niente perché sto sperimentando, sto facendo le prove, sto in fase amatoriale, puoi fare quello che ti piace. Guarda, rimane il fatto che bisogna usare i baracchini omologati, radioamatore o CB, su questo hai detto la cosa giusta, questo lo sapevo già. Però vi chiedo gentilmente, a me questi discorsi non mi interessano, altrimenti mi ritiro in bellezza. Ok, parliamo di altro, il cambio per Claudio, buonasera. Eccetera eccetera, quindi tempo per la radio non è che l'abbia avuto tanto, però adesso un po', qualche giorno entro, dai, qualche, non dico tanto, ma un po' entro, dai, un paio di ore. Si è sentato un attimo, vediamo un po' se c'è Franco California, se no riprendi tu già fra. Ehi, K, qua, io sono qua, dai. No, stavo facendo alcune cosette, stavo seguendo il discorso, vabbè. Ok, volevo chiedere anche a Ruggito se mi ascolta. L5C qua, sì. avanti, arrivata mia figlia, vi chiedo 5 minuti di permesso di quel Rix, rimango un attimo in quel Rix, avanti Gianfra, riprendi. Sì, sì, ciao anche a tutti gli altri entrati, ciao Carlo, ciao Claudio, ciao insomma a tutti. Io sono, ripeto, un po' distratto perché sto guardando questo, ho dovuto installare un programma, adesso sta andando, ma non mi piace tanto. Chi toccava, io rilancio a Claudio, chiudo Arrugginito da Mulos, riprendi tu. Bicicletta a fare con le strade o club. Video anche con Claudio, ieri l'ho sentito, si è fatto l'antenna come quella di Giulio e come quella mia, l'autocostruita, però non è l'originale, con l'autocostruita, esce bene. Thank you. così. Spalvero, le prego. Eccomi, eccomi, eccomi, ci sono, ci sono. Stavo salutando mia figlia. Cappa, cappa. Anda bene. Ehi, vabbè. Cosa ti volevo dire? A proposito di figlio, sai cosa mi hanno fatto a me? Il giorno del mio compleanno mi ha telefonato Marco, mio figlio, e mi ha detto: papà, ascolta, io sto frequentando una ragazza, se la porto stasera perché dovevo fare una cena, fra tutti noi. E mi ha detto: ti dà fastidio, te cosa ci fa questa qua insieme a noi? E dai, fammela portare, vabbè, portala. Sono andato a prendere a lui, adesso invece c'è la Manuela arrivata da Bologna apposta per il mio compleanno, il piacere che mi ha fatto, guarda, mi ha fatto la carambata. Bello così, bello, bello, è il 20 il mio, il 20 è il mio, lo so che tu sei prima, il 20 in questo mese siamo due. Primo anno lo festeggio qua, nella casa nuova, saremo forse una ventina, posto ce n'è, uffa, speriamo sia una bella giornata, e se no dentro, già c'è un salone grande io, grazie, 40 metri quadri, già ce ne sta gente, bene, bene, bene, chi è rimasto che mi sono allontanato? Io, Claudio, qui, chi c'è? Non so se ci sia ancora Luca, Franco, li abbiamo chiamati, non sono entrati, e poi c'è un Franco che sta manipolando con un programma, non so cosa stia facendo. Ok, molto bene, molto bene. No, io mi sono tanto un attimo, devo dire cos'è l'aria, e quindi mi sono sentato un secondo, ma già vi sento lo stesso con le radio accese. Vai Claudio, bravo, tutto bene? Thank you. KK, io non so cosa intendete voi. Allora io avevo il Super Sider, che ho sempre chiamato Sider, vabbè. Quello lì è il Terme più 3, Terme più 3, non Terme più 3B, adesso c'ho il Terme più 3, il Terme più 3B. Ok, l'avevo dato a Gavino Joker, vabbè. Un giorno mi è capitato così di ho detto, ma voglio vedere qual è la differenza di questi microfoni. Sono identici dentro, non cambia niente, stessa capsula, stesso circuito, tutto. Il problema è che sono dei pezzi rari, perché te lo fanno pagare? Perché sono degli esemplari particolari. Hai visto come è fatta la cassa, che è un po' diversa, c'è questa cromatura. È come se vi ricordate, no, l'alfetta normale e l'alfetta quadrifoglio oro. La stessa cosa. Andavi a comprare l'alfetta quadrifoglio oro, te la facevano pagare 5-6 milioni in più. Allora, l'alfetta normale costava 5-6 milioni in meno. Perché? Perché l'alfetta quadrifoglio oro aveva delle rifiniture così belle, così particolari, che Alfa Romeo l'aveva fatta esclusivamente con quel disegno Bertone, che era così, e così è la differenza tra uno e l'altro. Però credetemi, se lo aprite dentro sono perfettamente uguali, hanno la stessa tonalità. Io li ho provati, capito? Però come dice Gianni, se lo fanno pagare, perché sono dei pezzi rari fatto dalla Turner, e quindi ti fanno pagare queste rifiniture che ha, questa bellezza che ha in più del microfono del Terme più 3 normale, capito? Tutto lì. No, ma 200 euro no, però 130, 100, anche 150 te lo fanno pagare. Io quello che avevo comprato l'avevo comprato a 120 euro ed era nuovo, però sto parlando di tanti anni fa, poi non ne ho più comprato microfoni così perché non mi interessa. Tanto io le differenze le conosco, quindi, però è molto più bello rispetto al Terme più 3 normale, su questo non c'è dubbio, Claudio, capito? Vai già. Io ho messo diventati pezzi da collezione qua, io li ho visti 180, 200 euro, li stanno vendendo su eBay, su internet, dove ci sono quei siti di cose di CB, eccetera, eccetera. E li vendono così, quel prezzo lì li vendono. E poi c'è anche da considerare il fatto che qualcuno fa il furbo e cambia la capsula, quindi se li prendi da fuori non sai mai se vanno bene o se non vanno bene. Li cambiano le capsule e li mettono la capsula che vogliono, poi quando tu vai a usarlo non è più il TAN, è più 3, se sai di chi che mai è un microfono amplificato normale. Infatti si conferma, bisogna prendere la persona. Guarda, io ho il microfono originale da tavolo del Simba, ok, che l'unico che ce l'ha è Marco Scorpio, perché lo so, è tutto fatto in ferro pesantissimo e solleva e abbassa come il, cos'era quello, l'Expander 500 mi pare, o quello grande che avevamo noi già, adesso non mi ricordo. Quello lì, capito? Però questo è in ferro, tutto cromato, bellissimo. Mi hanno fatto un sacco di soldi, perché io ne avevo un sacco di microfoni da tavolo, facevo una collezione. E non l'ho mai dato, sempre dentro l'armadio, capito? E quando un collezionista ti chiede queste cose è perché sono pezzi rari, come le MC50, anziché le MC60. Le MC50 è raro lo stesso, non lo trovi più. Io ce l'ho lo stesso, le MC50. Quindi sono microfoni particolari qua, sono microfoni, però ti posso dire, io col Comstat usavo l'MB più 5 ed è una canonata, esce molto molto bene, oppure il Terme più 3 normale. Il Terme più 3B rispetto al Terme più 3, quello grigio, a me mi soddisfava di più, la verità. È sempre un Turner, non è che cambi, insomma, tutta questa. È chiaro che quando parliamo di microfoni d'alto livello come il Turner, il number one rimane il Super Sider, capito? Perché è fatto in una maniera eccezionale, ma è molto bello anche esteticamente, non si discute. Però come ti ha detto Gianni, devi stare attento dove lo prendi, perché se ha la capsula originale va bene, se invece l'hanno manomesso esce peggio di un altro microfono, li prendi qua. Thank you. niente, io ce l'ho sopra il mobile, così ogni tanto lo uso, ma uso più questo qua, perché ha la radio più penetrante, questo qua è più bella come radio, questa qua. Questa è Saletta già. Questa è Saletta. Non ce n'è, Saletta c'è un acuto bello presente con elettronità medio-basse da paura, molto bella questa radio, mentre invece il Tane più 3 ti fa solo acuti, mancano i bassi, è lì la differenza, capito? Vedi, la differenza è che io posso portare anche bene il Tane più 3 perché ho la tonalità medio-bassa, spingo molto il petto e quindi potrebbe andare bene, però col Saletta è favolosa la modulazione, soprattutto il Galaxy, io ce l'ho il Saletta. Saletta Master Plus con l'eco tutto completo, nuovo, però non lo uso col Galaxy uso o l'MV più 5 o il Tane più 3B che vanno benissimo, capito? Però microfoni ce ne sono tanti, lo sappiamo tutti, qualità prezzo, il più 4 e il più 5 stanno dando grandi soddisfazioni a tantissime radio, io ne ho uno con lettore Kenwood, proprio alimentazione, prende l'alimentazione dalla radio, sembra un 60, tu inserisci, non ha batteria, non ha niente, è originale, fatto chiaramente da Fabrizio, l'aveva fatto per Massimiliano, prima l'avevo preso io, nuovo di Zecca, col cavo originale, tutto, ma tu devi sentire questa modulazione anche col K, sembra un 60, cioè risponde bene in tutte le radio. Assolutamente, in tutte le radio, sono dei microfoni che qualità prezzo costano 60 euro, 70 euro, però c'è un microfono che lo puoi attaccare da qualsiasi parte, capito? Mentre il Tane più 3, se io lo dovessi attaccare per dire al K, mi dà questi acuti e è brutta la modulazione, mentre il più 5 lavora molto molto meglio, riprendi. Sto usando quello io, come mi stai ascoltando? Guarda. No, la radio, com'è? Sì, ma noti la differenza, noti la tonalità della modulazione, noti gli acuti, spinge molto gli acuti, è bellissima lo stesso la radio, però spinge molto gli acuti, mentre il Saletta mi piace di più perché c'ha anche le tonalità medio-basse, nonostante abbia gli acuti, anche i medi molto, molto presenti, capito? Mentre invece questo spinge proprio, è una bombarda, senti l'acuto proprio fortissimo, però è bella già, Sì, ogni tanto lo attacco perché così almeno lo tengo in funzione. E adesso non l'ho manco avvittato la ghiera, li scambio ogni tanto così almeno funziona uno e l'altro. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Ah, Avanti Mirko, buonasera a te. Avanti Claudio. Claudio io? Ciao. Ok, ciao Mirko, buonasera, ben ascoltato. Santiago Nova, Radio 5. Più forte del solito, cosa hai combinato? Come radio va bene, 6.5 perfetta, amplificata, no? Come segnale. Mi arrivavi tra il 7 e l'8 prima, adesso mi arrivi 9 pieno. Poi mi direi se hai fatto qualcosa all'antenna, eh? Ottimo segnale. Vabbè che io con Alghero sono rimasto alla grande, sono contentissimo, non è che abbia perso molto. Avanti Cla. Claudione o Claudietto, quindi siamo andati in bicicletta oggi.